Stiamo assistendo a dei comportamenti anomali e strani da parte di questa azienda, che vive ormai un periodo di crisi che è di 2 anni, sostanzialmente da dopo lo scandalo del 2021 che aveva investito il vecchio editore, il precedente editore, e oggi dopo 2 anni di contratti di solidarietà a settembre abbiamo visto l'apertura di una procedura di licenziamento collettivo che riguardava sia i giornalisti che i dipendenti con contratto grafico industria, e che ha visto poi la chiusura di queste due procedure in maniera diversa. Per quanto riguarda i grafici, che poi sono i lavoratori che seguiamo noi di SLC, la procedura si è conclusa con un ulteriore contratto di solidarietà di 3 mesi che scadrà poi purtroppo a gennaio di quest'anno, quindi a gennaio 2024. Per quanto riguarda i giornalisti, l'azienda ha agito unilateralmente perché si è conclusa la procedura senza un accordo, e di conseguenza si è visto 14 licenziamenti, di cui 2 sono di giornalisti della sede di Bologna. Abbiamo da subito parlato, insomma, dell'illegittimità di questi licenziamenti e chiesto che venissero ritirati, così come ha fatto anche il comitato di redazione. L'altra cosa invece molto grave che è accaduta è a fine anno, cioè il 31 dicembre, con una mail l'azienda ha comunicato a 17 giornalisti dell'agenzia romana la sospensione dal lavoro. Per noi questo è un atto assolutamente illegittimo, al quale chiediamo ovviamente il ritiro, considerando tra l'altro comunque nullo. L'editore su questo punto ha giustificato queste sospensioni con il fermo amministrativo arrivato dal MIUR, ma si può fare una cosa del genere? Allora, come dicevo, per noi è un atto illegittimo, in quanto non c'è nessuna previsione, nessun istituto contrattuale e legale che lo preveda. D'altra parte è vero che questo fermo amministrativo, che è stato comunicato all'azienda il 29 di dicembre da quello che ci risulta, è legato a questioni legali, penali, giudiziarie e comunque della vecchia amministrazione, quindi della vecchia proprietà. È un atto che ha creato sicuramente dei problemi all'azienda, ma che, come stiamo vedendo negli ultimi 2 anni, alla fine si chiede di farlo pagare ai lavoratori. Tu dicevi fino al 31 di gennaio per i poligrafici c'è il contratto di solidarietà, ma poi rischiano anche loro? Allora, il rischio c'è sempre, perché comunque una procedura di licenziamento collettivo a settembre era stata aperta anche per i grafici. È chiaro che noi chiederemo all'azienda, a fronte di quello che è accaduto, avevamo già chiesto negli ultimi giorni, avevamo chiesto un incontro urgente al quale ancora non abbiamo avuto risposta, ma è evidente che prima della fine di gennaio dovremo incontrarci per la questione del contratto di solidarietà. La nostra richiesta sarà quella di utilizzare gli ammortizzatori disponibili e quindi di continuare a utilizzare il contratto di solidarietà. Più in generale, complessivamente per tutti i lavoratori, voi chiedete, insomma, di non procedere unilateralmente. Noi chiediamo di sederci a un tavolo e di fare quello che normalmente si fa in queste con queste crisi. Sono crisi complesse, difficili, tra l'altro in questo caso, come abbiamo già detto, ci sono delle vicende giudiziarie che rendono le cose più complicate, rapporti con l'amministrazione statale che ovviamente hanno delle loro specificità e delle loro particolarità. Però si tratta di un'agenzia di stampa, una delle più importanti in Italia, una delle 4 più importanti in Italia, ha una storia che non può non essere presa in considerazione, e quindi le soluzioni, noi crediamo che le uniche soluzioni possibili siano soluzioni condivise. Abbiamo visto in questi mesi, viene da dire, tanti attestati di solidarietà anche da parte di esponenti politici e delle istituzioni, però le istituzioni si stanno muovendo in qualche modo? Non so adesso se ci sono dei movimenti particolari. Abbiamo registrato anche noi, insomma, tantissime, anche negli ultimi giorni, ecco, ovviamente, da tutte le parti degli attestati di stima rispetto al lavoro e alla qualità del lavoro di questa agenzia. E al momento non ci sono però dei chiari passi in avanti, che comunque noi chiediamo, perché ognuno dovrà fare la sua parte per salvare questa azienda.